Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, torneremo anche sul petrolio oggi. Oddio, non è che noi tifiamo per un petrolio in rialzo, però oggi in leggero rialzo a 45,6 dollari al barile dopo il calo di ieri soprattutto. Parleremo, dicevo, della cronaca come sempre, ma anche, ricordo essendo venerdì, della nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione. Per quello che riguarda il dato invece la cronaca finanziaria, ricordo che ci sono anche alcune dichiarazioni in merito ad alcune trimestrali e bilanci, e così mi sposto subito sulla parte che riguarda la borsa, non prima però di avere ricordato il numero, come sempre, per i vostri SMS e WhatsApp: 349 238 6666. Sì, confermo anche chi già me lo chiede che vi sarà come sempre anche la startup, ossia chi ha lanciato un'attività di impresa in questi anni di crisi, ammesso che sia solo una crisi, e oggi insomma, come sempre le startup le scegliamo non possibilmente non negli stessi settori d'appartenenza. Dicevo della borsa: più 1,43% Milano, più 0,97, più 1% Parigi, più 0,40 Francoforte, più 0,50 Londra, meno 0,11 il Dow Jones. Molto bene alcune banche oggi, in particolar modo Intesa San Paolo più 3,33, UbiBanca più 2,84, mentre Telecom Italia guadagna il 2,5%, Eni il 2,20%, Buzzi Unicem il 2,20%, Unicredit il 2%, Banco BPM l'1,80% come Ferrari, Exor l'1,5% come Tenaris e Campari e Mediobanca. E fronte opposto vede soprattutto, se non dico quasi solamente, Moncler meno 3% e A2A meno 0,77%. Per quello che riguarda l'euro su dollaro, è in continuo, anche se leggero, rafforzamento l'euro, 1,0983, quindi si avvicina a quota 1,1. Per quello che riguarda i dati, diciamo, in qualche modo sensibili per la borsa, sì, qualcuno mi chiede anche di Telecom, parleremo di Telecom Italia, ma dicevo, oggi il dato più importante probabilmente arriva dagli Stati Uniti, ed è riferito alla disoccupazione. Il tasso di disoccupazione scende dopo un dato più contrastante nelle settimane scorse, scende al 4,4%, e il dato è migliore delle attese degli analisti, che si attendevano una disoccupazione statunitense al 4,6%, ma di nuovo invece in Europa tiene banco il tema Brexit. E allora partiamo da qua con le nostre notizie in breve. Dicevo la Brexit, perché il colosso bancario statunitense Goldman Sachs ha annunciato di aver pronto un piano per il trasferimento del proprio staff nella City a seconda del risultato dei negoziati sulla Brexit. Lo ha detto il numero uno, l'amministratore delegato, l'unico che è rimasto, diciamo, dopo il 2008, mi riferisco a Lloyd Blankfein. Ha detto: a Londra c'è il rischio di uno stallo, mi auguro di non dover avviare il piano. Noi abbiamo 6.500 dipendenti nella City, ma dobbiamo prepararci a ogni scenario ed eventualmente il trasferimento del personale in città di paesi dell'Unione Europea come Francoforte o Dublino. Questo fa il paio con la notizia di due giorni fa, quando anche JP Morgan ha annunciato di essere pronto a spostare centinaia di dipendenti dei suoi uffici londinesi a Dublino, a Francoforte o a Lussemburgo, nello scenario di una Gran Bretagna che dovesse perdere completamente il passaporto bancario europeo, chiamiamolo così. Ha detto JP Morgan, infatti, useremo le tre banche che già abbiamo in Europa come punti di ancoraggio per le nostre operazioni. mi chiedete alcuni della Francia. Allora, l'ultimo sondaggio, con per quello che valgono i sondaggi dopo l'esperienza Brexit e Trump, voglio dire, non ci scommetterei un euro, ma insomma, l'ultimo sondaggio vede Macron, quindi En Marche, con il 62% dei voti contro il 38% della Le Pen. Segnalo che su questo poi oggi ci sono state nuove contestazioni per Marine Le Pen, di nuovo lancio di uova diciamo dalla cattedrale di Reims, nell'ultimo giorno di campagna presidenziale sostanzialmente. Non so se mi devo preoccupare, però è già la terza occasione in cui sono d'accordo con Bruxelles e con Juncker. Prima era riferita all'atteggiamento da tenere con la Gran Bretagna. Oggi invece il riferimento è al plauso che Juncker, al The State of the Union, ha dato all'Italia. Ha detto: l'Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria. L'Italia ha salvato e salva l'onore dell'Europa. Questo lo dico al di là delle polemiche, dopo le dichiarazioni del procuratore e le ipotesi su alcune ONG assolutamente non gradevoli. Però, ha aggiunto Juncker, dobbiamo essere più solidali sia con l'Italia sia con la Grecia, che non sono responsabili della loro posizione geografica, e ci mancherebbe, aggiungo io, sono lì dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto. Sì, da ottimo il plauso condivisibile all'Italia e alla Grecia, dopodiché dopo il plauso vorremmo vedere anche l'iniziativa. Più volte abbiamo detto che sostanzialmente o tu hai delle sanzioni vere e proprie, come hanno i paesi le sanzioni che non rispettano gli accordi sul deficit dei paesi dell'area euro, o se no tutto resta sostanzialmente un di cui. Però va bene. Ancora per quello che riguarda il tema dell'Unione Europea e i conti pubblici, in questo caso la portavoce del commissario Moscovici, Dombrovskis, hanno detto: a maggio applichiamo le regole esistenti sui conti, la lettera dei ministri non ha impatto sulle prossime valutazioni, valuteremo comunque la lettera del ministro Padoan per quello che riguarda l'Italia insieme ai colleghi. La Commissione ha confermato di aver ricevuto la lettera in cui il ministro Padoan, assieme ai colleghi di Francia, Spagna e Portogallo, chiede all'Unione Europea di riconsiderare gli elementi con cui vengono valutati i bilanci sui singoli Stati membri. Però dice: attenzione, questo non avrà un impatto sulle valutazioni di maggio sulla correzione italiana. E veniamo all'Italia: entrate nel primo trimestre più 2,4%. A 94,6 miliardi, il gettito delle imposte dirette sarà dell'1,7%, le indirette del 3,2%. Questo è il dato del Ministero dell'Economia e Finanze per i primi tre mesi del 2017. Il gettito IVA ha fatto più 4,2%. Infine chiudo con gli indicatori di carattere economico italiano. L'indicatore anticipatore sull'economia italiana, quello dell'Istat, dà segnali positivi, cioè resta a segno più, ma attenzione, c'è una decelerazione di questo segno più, questa, soprattutto sul lato dell'offerta e del commercio estero stentano a rafforzarsi. L'occupazione è in fase di stabilizzazione, dice l'Istat. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, oggi come sempre trasmessi anche su RDS, e oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Rioli. Oggi è il giorno dell'indice anticipatore dell'economia italiana, un nuovo indicatore messo a punto dall'Istat per dare un'idea dello stato della congiuntura complessiva nel nostro paese. È più un segnale emotivo perché aggrega indicatori in parte già noti e quello che indica però stavolta può destare qualche preoccupazione. L'Istat infatti ha comunicato che in aprile l'indice rimane positivo ma evidenzia una decelerazione. Il problema è che se la decelerazione riguarda il PIL diventa più difficile centrare gli obiettivi di bilancio previsti dal DEF e tutti ancora da giocare nella manovra d'autunno che si preannuncia tutt'altro che semplice. L'Istat ha già detto durante l'audizione in Parlamento sul DEF una crescita nel primo trimestre in linea o inferiore a quella osservata negli ultimi tre mesi del 2016, ovvero dello 0,2%, richiederebbe ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati dal governo per il 2017 una accelerazione dei ritmi di espansione nei trimestri successivi. La stima Istat sulla crescita però arriverà a fine mese, ma questo indicatore anticipatore non fa pensare nulla di buono. Intanto dobbiamo accontentarci dell'indicazione sulla produzione industriale, che nel primo trimestre è aumentata dello 0,7% sul trimestre precedente. L'Istat ci dice ancora che le esportazioni nel mese di febbraio sono diminuite dopo quattro mesi di continua espansione, che a marzo è proseguita dalla crescita dei flussi commerciali come nei paesi extra UE. Un'altra indicazione importante è che il settore delle costruzioni mostra ancora difficoltà nell'avvio della fase di ripresa. Evoluzione moderata invece sulle aspettative per l'occupazione, insomma, i soliti chiariscuri e purtroppo ancora i maledetti 0, virgola. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Restiamo sui temi di carattere nazionale, dell'andamento della congiuntura, come si diceva una volta. A marzo è sceso leggermente l'indice che misura il disagio sociale, calcolato da Confcommercio, non dall'Istat, si chiama Misery Index, è sceso leggermente a 20,2 punti, meno 0,3 punti rispetto a febbraio, invertendo, qui lo dico per contestualizzare il dato, la tendenza negativa, cioè era sempre stato col segno meno. E col segno più, scusatemi, cioè aumentava l'indice sulla povertà e sul disagio sociale, invertendo seppur in misura contenuta la tendenza all'aumento che appunto l'aveva caratterizzato negli ultimi mesi. E a questo proposito segnalo che oggi Alessio Rossi è stato nominato ufficialmente il nuovo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, diventa di diritto anche vicepresidente di Confindustria, 37 anni, romano. Era già stato vicepresidente dei giovani industriali. La nostra Teresa Trillò, nella presentazione appunto del suo incarico, del suo mandato, gli ha chiesto insomma quali sono gli obiettivi che si dà. Rossi ha già citato uno, la riduzione del cuneo fiscale sui giovani, quindi soprattutto sui neoassunti, da quello che è, ricordo, essere il progetto del governo, almeno sotto i 35 anni. E beh, sentiamo qual è l'obiettivo del mandato e anche perché ha accettato questo incarico, appunto. Alessio Rossi, il microfono della nostra Teresa Trillò. Ho deciso di entrare in questo mondo purtroppo grazie o per colpa dei convegni di Confindustria. Mi sono appassionato e mi sono reso conto che dentro di me avevo lo spirito dell'imprenditore e quindi ho deciso a 30 anni di diventare imprenditore. È stata dura iniziare? È dura iniziare, è dura continuare, è dura andare avanti, ma è bello ed è l'unico modo di vivere che trovi dentro di te, perché se sei un imprenditore lo senti dentro e non puoi fare altro. L'obiettivo dei suoi primi 100 giorni alla presidenza? L'obiettivo dei primi 100 giorni sicuramente è quello di portare, far crescere un movimento che è già importante, fargli prendere posizione e farlo diventare un movimento riconosciuto anche da chi non fa parte del mondo delle imprese. Quindi la società civile si deve accorgere che esiste un movimento di giovani imprenditori che fa sia per le proprie imprese, ma lavorando per le proprie imprese automaticamente crea valore per tutto il paese. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutta la società civile e per il nostro paese. Lei è un giovane imprenditore in un paese dove la disoccupazione sia giovanile sia over 50 è molto alta. Una priorità per far ripartire il mondo del lavoro? Sicuramente costo del lavoro. Abbiamo avuto il Jobs Act che ha dato una spinta importante. Questa però non può esaurirsi dopo tre anni e quindi sicuramente devono esserci delle misure strutturali. Costo del lavoro e abbattimento della tassazione sulle imprese. Se non agiamo su queste due leve, sicuramente non avremo mai uno sviluppo duraturo e continuo e sicuramente non avremo mai quella competitività di cui il nostro paese e le aziende del nostro paese hanno tanto bisogno per competere con i mercati esteri. Dove prendere le risorse per fare tutto ciò? Le risorse sicuramente dal risparmio sui costi. Facciamo un taglio di costi vero, operativo, che sia effettivamente fatto, non solo uno studio. Cerchiamo di togliere le risorse dove non sono produttive e portiamole dove effettivamente possano generare ricchezza. Un consiglio a un giovane che vuole entrare nel mondo del lavoro? Di provarci, e se ha l'idea di diventare imprenditore, se lo sente dentro di sé, visto che è giovane e rischia poco, di buttare cuore, stomaco, pancia e tutto quello che ha dentro la propria azienda o dentro la propria attività professionale, rischiare tutto, impegnarsi giorno e notte. Se non riesce, non succede niente, di alzarsi e riprovarci. Questa è l'unica cosa che posso dire a un giovane, di provarci sempre. Ma ecco, una cosa solamente, dove prendere anche in questo caso le risorse? Perché diciamo che non è molto facile avere gli investimenti nel nostro paese. No, questo non è vero. Se hai una buona idea, i soldi si trovano, ci sono tanti fondi di venture capital, ci sono tante aziende molto grandi che hanno dei premi in denaro che attribuiscono alle idee meritevoli. Certo, se uno ha solo la voglia e la fantasia e la voglia di impegnarsi ma non ha l'idea giusta, è difficile che trovi le risorse. Però se ha un'idea giusta con delle prospettive realizzabili e ha tanto impegno e forza di volontà, secondo me in poco tempo, se insiste e persiste, raggiunge e conquista. La classifica della settimana. Allora, come ogni venerdì torna la nostra poco invidiabile classifica. Io vorrei, stiamo cercando disperatamente di farla ruotare, nel senso sia a livello regionale che a livello di singoli soggetti. Non è facile, perché poi ci sono delle regioni che ci forniscono più materiale di altre e dei soggetti giuridici che ci forniscono più materiale di altri. Faccio questa breve premessa perché al quinto posto devo mettere, al quinto e al quarto posto, le gemelline delle municipalizzate romane. Partiamo dall'AMA, poi ricorderò anche due dati, perché insomma sia l'AMA, avete già capito che al quarto posto c'è l'ATAC, sono sommesse ai debiti. L'ATAC insomma ha bruciato in 5 anni 4 miliardi e mezzo arrivati da comune e regione a 1,5 miliardi di debito pubblico. È la municipalizzata più grande, diciamo, a livello europeo. Ma vorrei partire dall'AMA, cioè da chi fa la pulizia a Roma. È noto che Roma ha un leggerissimo problema nella gestione dei rifiuti. La settimana scorsa abbiamo raccontato quanto guadagna l'Austria, la bassa Austria, 18 milioni l'anno per i rifiuti che settimanalmente vengono mandati in Austria, vanno nel termovalorizzatore, diventano energia elettrica per 180.000 abitazioni, sempre dalla bassa Austria. Quindi gli austriaci non solo si beccano 18 milioni da Roma ogni anno, ma la trasformano anche in energia elettrica, giusto perché le polemiche sui termovalorizzatori in questo paese non sono mai finite. Molto meglio ovviamente la discarica, no? A cielo aperto con i gabbiani romani. Ma sentite questa, c'è un gruppo di genitori che decide a un certo momento di porre fine al degrado nel giardino della scuola dei loro figli, chiaramente perché c'è qualcuno che non lo sta pulendo. Si organizzano, giro di messaggi su WhatsApp, appuntamenti tra genitori, ormai i genitori, non sa chi ha i figli a scuola, si contattano e si coordinano con WhatsApp. Perfetto, appuntamento la domenica mattina con le scope, i rastrelli, le ramazze e via. L'istituto è quello, l'istituto comprensivo pubblico Vibio Mariano, elementari e medie, a Tomba di Nerone. Mettono insieme appunto 20 sacchi di foglie e rifiuti, passano la domenica a raccogliere rifiuti e foglie, chiamano l'AMA per far portare via il materiale di risulta. Cioè, voglio dire, l'AMA dovrebbe fare un tappeto rosso a questi genitori. Oh, così i bambini e anche gli adolescenti delle medie avranno a disposizione un giardino pulito e sicuro. Dopo 3 settimane i sacchi sono ancora lì. E lo ha raccontato una delle mamme. Quando abbiamo contattato l'AMA ci ha risposto che dovevamo pagare 38 euro ogni 5 sacchi, quindi 200 euro. E alla domanda è chi ce li dà sti soldi? La scuola. Perché l'AMA si serve di una ditta in subappalto che vuole essere pagata subito. Quindi, se capisco bene, in un'azienda come l'AMA che ha 7.924 dipendenti, 1.180.000.000 di debito. Un'efficienza che abbiamo raccontato in decine di puntate da usare nei manuali e nelle scuole, come dire, così non si gestisce una municipalizzata, così non si gestisce una città, così non si gestisce la raccolta dei rifiuti. Di fronte a dei genitori, dei bambini che raccolgono i sacchi, chiede di pagare 200 euro. Uno dice, ma chi se ne frega di 200 euro? Eh no, i sacchi sono ancora lì, la lezione l'hanno imparata anche i genitori e immagino anche i loro figli. A Roma l'importante è che tu non faccia nulla, perché sennò entri nel tunnel della burocrazia. Guarda, bellissima questa cosa dell'AMA, che però fa il paio con il quarto posto, che riguarda l'ATAC, appunto, le cuginette. ATAC, Municipalità dei Trasporti Romana, 12.000 dipendenti, 1.500.000.000 di debito, 80 milioni di rosso nel 2015, un parco mezzi di 1.980 veicoli, di cui effettivi 1.400, ha bruciato appunto 4.500 miliardi, ha gli autisti che guidano meno di tutti, cioè meno degli autisti dell'ATM milanese, ma anche della municipalizzata di Napoli, praticamente sostanzialmente le vetture milanesi percorrono 183 milioni di chilometri rispetto ai 150 milioni dell'ATAC, pur avendo meno vetture, ma insomma è tutto, ma addirittura l'ATAC non riesce neanche a raccogliere le multe ai passeggeri. A Milano valgono 8 milioni, all'ATAC 7 milioni e 6. L'ATM a Milano ricava quasi 19 milioni dalla pubblicità sui mezzi. Le multe, scusatemi, ho sbagliato in questo caso. L'ATM a Milano ricava quasi 19 milioni di euro l'anno dalla pubblicità sui mezzi. L'ATAC a Roma ne ricava quasi un terzo, 7 milioni 600 mila euro. Le multe, questa è bellissima, a Milano valgono 8 milioni di euro. E a Roma riesce a incassare poco più di 1 milione, pur avendo una superficie e più mezzi rispetto a quelli milanesi, a dimostrazione che c'è qualcuno che non fa i controlli, perché non possiamo immaginare che a Roma tutti paghino il biglietto e a Milano non paghi nessuno. Adesso, onestamente, perché lo dico? Allora, perché in questo caso la voragine finanziaria, noi abbiamo spesso detto che nell'ATAC c'era qualcosa che non andava, per esempio i sindacati che avevano in gestione tutto il dopolavoro, mense, macchinette per le patatine, per l'acqua, tutto, insomma, è ovvio che questi sindacati, i furti, Rettighieri, l'ex direttore generale, riuscì a ridurre i furti al 10%, i furti di materiale, i pneumatici che venivano cambiati, manco fossero fatti di carta pesta, perché poi si era scoperto che un dipendente, la moglie di un dipendente, stranamente, era nella società che forniva gli pneumatici. Che i dipendenti abbiano qualche responsabilità e che i sindacati in questi anni non si siano mai svegliati all'ATAC, se non per riconoscere i diritti famosi acquisiti degli autisti e quant'altro, l'abbiamo detto mille volte. Ma bisogna dire questa volta grazie alle Iene, perché nella puntata del 30 aprile, dopo la puntata del 30 aprile, finalmente c'è un esposto alla procura, speriamo che serva, per quello che riguarda, diciamo, i furbetti del cartellino dell'ATAC. Ossia quelli che entrano e escono dagli uffici senza timbrare il cartellino per andare al bar, bere il caffè, giocare nella lotto, fare la spesa, comprare gratta e vinci. Addirittura uno nel servizio, seduto al sole del tavolino di un bar, beveva la birra, veniva intervistato anche da uno delle Iene, da Filippo Roma, poi magari se lo trovo lo faccio anche ascoltare, e dice: oggi sono in congedo e sono in ufficio solo per caricare il cellulare. Beh, perché? Allora l'ATAC ha dato mandato ai propri legali per presentare un esposto. Sono attivate tutte le iniziative utili a accertare quanto denunciato nella trasmissione. L'azienda non tollererà in alcun modo che il comportamento di pochi dipendenti getti ombre su chi lavora. E poi l'ATAC ricorda che negli ultimi 3 anni sono state elevate 400 multe e 60 sospensioni dal servizio dello stipendio e 3 licenziamenti. Tra l'altro, insomma, su 12.000 dipendenti, io devo dare per scontato che solo 400 fossero multabili, solo 60 fossero sospendibili dal servizio e solo 3 fossero licenziabili. Metti. Focus Economia. Di nuovo in diretta per il terzo posto della nostra poco invidiabile classifica. Devo leggere qualche messaggio. Allora, ci stanno scrivendo altri ascoltatori su casi analoghi, così rispondo anche che mi dice: ma come, avete messo al quinto posto una vicenda da 200 euro? No, guardi, i 200 euro sono simbolici, è solo che quando tu vedi, mi riferisco ai genitori che hanno ripulito giardini e rifiuti della scuola, e l'ATAC gli ha detto che non può, l'AMA gli ha detto che non può venire a prendere i rifiuti, devono pagare 200 euro, siamo alla follia. Mi segnalano casi analoghi anche nel resto del paese, mi scrive un ascoltatore: circonvallazione di Napoli fra Arzano e Villa Ricca, ormai da più di un mese gli operai che hanno tolto il grosso della spazzatura e non pulito hanno lasciato i sacchi con la spazzatura sul ciglio della strada, giacciono lì da un mese. Hanno mandato il messaggio al mattino di Napoli, ma i bustoni sono ancora lì. Non posso che rigirare questo messaggio, ed era l'elemento emblematico. Poi c'è un ascoltatore che in maniera, insomma, molto inglese, britannica, mi chiede perché mia madre non abbia abortito, ma soprattutto io vorrei sapere dove lavora lei, perché vorrei capire perché di tanta, diciamo così, astio, se l'abbiamo toccata eventualmente nel vivo. Andiamo avanti con, dicevo, il terzo posto, perché al terzo posto è uno, tra un po' inventeremo anche la sigla, alle volte ritornano i CNEL. Io da quando ho iniziato a fare sto programma, ormai sono tanti, forse per alcuni troppi anni, che sento parlare della chiusura del CNEL, dell'Alitalia, della fine della Salerno-Reggio Calabria. Allora, Salerno-Reggio Calabria forse è quasi finita, l'Alitalia nulla è cambiato, e anche il CNEL. Allora, tutti quando arrivano al governo dicono: sopprimeremo gli enti inutili, tra cui il CNEL. Perché? Perché il CNEL ha chiesto quello che aveva smentito di voler chiedere. Allora, il CNEL è un ente inutile, personalmente, senza nessuna, senza che sia a livello diciamo di simpatia o antipatia, ma come valutazione il CNEL va chiuso e basta, non serve a nulla, ok? E poi mi querelerà il CNEL. Allora, cosa ha chiesto il CNEL? Ha chiesto il ritorno delle indennità, lo stipendio dei consiglieri cancellato nel 2015, con l'aggiunta di quasi 2 anni e mezzo di arretrati, per un totale di 4 milioni di euro. Stranamente lo hanno votato all'unanimità all'Assemblea del Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro, che si è tenuto mercoledì scorso. Ecco un riassunto, ve lo do perché insomma è interessante. Arriva il governo Renzi, dico solo ultimo, non è solo per ultimo perché anche gli altri l'hanno promesso. Arriva il governo Renzi e dice: insomma, il CNEL è l'esempio dello spreco inutile di denaro. Siamo d'accordo con l'ex Presidente del Consiglio, ne prevediamo la soppressione della riforma costituzionale. La riforma costituzionale viene bocciata, come sappiamo tutti, nel referendum il 4 dicembre, chissà come avranno votato i consiglieri del CNEL, e da allora rafforzato, cito le parole del Presidente del CNEL, Delio Napoleone, rafforzato il CNEL dalla legittimazione popolare. Napoleone, senta una cosa, però il referendum del 4 era un referendum intanto pro contro Renzi, con un verdetto inequivocabile del governo, e soprattutto pro contro la riforma della Costituzione nella parte che riguardava il Senato. Dubito che quei voti possano essere letti come un 60% degli italiani che ha anche votato a favore del mantenimento del CNEL, perché se avessimo fatto un referendum solo sul mantenimento del CNEL sarei curioso di aver visto le proporzioni. Quindi la prego, massimo rispetto per tutti, ma non è che si può appropriare il 60% di chi ha votato no alla riforma della Costituzione dicendo: abbiamo ricevuto, testuale, siamo stati rafforzati dalla legittimazione popolare, come no, manifestazioni in tutta Italia per mantenere il CNEL. Il CNEL ha cercato di riprendersi ciò che gli era stato tolto, a partire, ovvio, dalle indennità perdute. Lo stipendio valeva 25.000 euro lordi l'anno per i consiglieri semplici, più rimborsi, saliva a 45.000 euro per i vicepresidenti e a 215.000 per il presidente, appunto Delio Napoleone. Doveva essere un atto preparatorio per una chiusura che sembrava cosa fatta, appunto non è andata così. L'Assemblea quindi ha delegato l'ufficio di presidenza a porre allo studio una proposta equilibrata in materia di indennità e di rimborsi e spese di partecipazione alle riunioni, anche perché molti colleghi sono costretti a dimettersi dopo la cancellazione. Comunque, su 60 consiglieri ne sono rimasti 22 e quelli che all'unanimità hanno approvato il ritorno dello stipendio erano appena 12. Ho già preso contatti, il tuo presidente, con un primario studio legale qualificato nei profili costituzionali per valutare la possibilità di un ricorso. E questi, diciamo, li chiamo in maniera benevola gli ultimi giapponesi del CNEL, potrebbero anche vincere la battaglia. Non so se la guerra, perché tra 20 giorni ci sarà anche l'udienza della Corte dei Conti sull'accusa di danno erariale da 800.000 euro mossa dalla Procura contro 15 consiglieri del CNEL che avrebbero autorizzato un insieme di consulenze facili. L'11 aprile il governo ha avviato la procedura per il rinnovo di tutto il consiglio e adesso vedremo chi sarà il nuovo presidente. Io spero semplicemente che... Ah, eccolo qua, è arrivata un'agenzia adesso. Oh, Tiziano Treu è il nuovo, mentre stavamo parlando, è il nuovo presidente del CNEL. Oh, io Treu l'ho anche stimato, l'abbiamo avuto spesso ospite per la riforma del mercato del lavoro. Vabbè, bocca al lupo a Tiziano Treu nella speranza di non dover più parlare del CNEL, di parlare lungamente di Tiziano Treu, ma non più del CNEL, nel senso che prima o poi lo chiuderemo. Andiamo sul traffico. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Andiamo al secondo posto rapidamente, e al secondo posto c'è la grande, vera, unica regina delle incompiute di questo paese. Voi direte la Serena Reggio Calabria? No. Perché è vero che ci abbiamo messo 54 anni a fare il raddoppio della Serena Reggio Calabria. 494 chilometri, 54 anni, meno di un chilometro di 10 chilometri all'anno abbiamo fatto. Però la vera regina, cioè praticamente potevamo costruirla manualmente la Serena Reggio Calabria. La vera regina delle grandi opere incompiute si chiama Orte Civitavecchia, tratto laziale della SS675 che parte da Terni e va verso il litorale tirrenico. Decine di annunci e decine di cantieri. I lavori iniziarono nel 1975. Quanto sarà lunga? Per stare a fare la gara con la Serena Reggio Calabria non è che può essere da meno. Infatti è lunga 75 chilometri, ma ne mancano ancora 24. Cioè dal 75 ad adesso siamo riusciti a fare semplicemente 50 chilometri. Mancano ancora 24,4 chilometri, un terzo del totale. Nessuno può immaginare quando sarà realizzato il lotto fra Cinelli e Monte Romano, 6,4 km, è in costruzione, la consegna è prevista per il 2018. C'è poi il tratto finale, perché il problema di queste superstrade è che hanno anche il tratto finale, purtroppo. E tra Monte Romano e Tarquinia sono 18 km, approvato dalla Regione Lazio, bocciato dai tecnici del Ministero dell'Ambiente. Con 120 pagine, non sono stati valutati adeguatamente i rischi connessi all'inquinamento e all'atmosfera acustico. Inoltre il tracciato andrebbe a sconvolgere l'ecosistema dell'incontaminata Valle del Mignone, tutelata dalla direttiva europea Habitat. Ma nella regione, quando fanno il progetto, non lo sapevano che la Valle del Mignone era tutelata dalla direttiva europea. Perché questo poi è il problema, l'incompetenza di chi fa i progetti. Valle del Mignone. Sta zitto, dai. La progettazione è dunque da rifare, l'iter autorizzativo riparte da zero e salta, a me fa impazzire perché i giornali scrivono salta il cronoprogramma, ma che cavolo di cronoprogramma, che dal 75 che la stiamo costruendo, sta specie di superstrada, cronoprogramma. Crono si gira nel cielo a sto punto. Allora, la progettazione è da rifare, tutto riparte da zero, forse la completiamo per il 2020. O meglio, saranno aperti i cantieri, dicono ambienti delle imprese di costruzioni. Allora, tutti sono d'accordo sul fatto che Orte e Civitavecchia necessitino di una superstrada. Potrebbe vedere il transito di 15-20.000 vetture al giorno. Civitavecchia, lo ricordo, è inutile che qualcuno faccia ironia, è uno dei principali hub commerciali del Mediterraneo, è uno scalo crocieristico, è un porto, è un retroporto molto importante. Orte rappresenta lo snodo. Un audio, o Roma Orte, Marcia su Roma, insomma, chi è che non ricorda Tognazzi e Gassman o Roma Orte? Lo snodo per collegarsi alla rete autostradale, e poi c'è anche lo snodo per collegarsi a quella ferroviaria dell'alta velocità. Pensate che il primo studio per realizzare l'autostrada dei due mari, cioè il corridoio fra Tirreno e Adriatico, che in realtà è molto, non è così lungo, ma se uno prova a farlo, dico per esperienza, passa la giornata, fu del 1966. Infatti adesso per fare 82 km ci vogliono 4 ore nelle giornate più fortunate, io personalmente ci sono messe quasi 6 in realtà. Tra l'altro non esiste una viabilità privilegiata, la segnaletica è inesistente, non c'è per arrivare dal casello della 1 alla superstrada non c'è un cartello che indichi la direzione da prendere per andare a Civitavecchia. Bisogna andare intuito, o lancia la moneta, o è il navigatore o lanci la monetina, o Roma o Orte. E si passa per stradine che lambiscono il perimetro del borgo di Orte, i limiti di velocità vanno fra i 30 e i 50, avete ragione, Crono era sottoterra, non era lì, ce l'aveva mandato Zeus, comunque fra i 30 e i 50 km all'ora, e poi lo scorrimento veloce che dura 41 km, poi c'è l'Aurelia Bis dove si incolano tutti, camion e mezzi pesanti. Comunque complimenti, noi attendiamo. E andiamo al primo posto. And the winner is... Allora, è molto facile oggi, se avete letto i giornali di questi giorni, non potevamo... Io sto cercando disperatamente il Fuxus di Crozza, adesso vediamo se riusciranno a darmelo. E beh, la nuvola. A me non mi frega nulla se la colpa sia di Fuxus, che dice non è colpa mia, hanno stuprato, hanno diciamo distorto il mio progetto... Se la colpa è di chi ha realizzato, bisognerà accertarlo. Io mi chiedo come sia possibile. Mi abbassate un attimo la musica, perché come sia possibile che no, ho detto è inutile che qualcuno faccia ironia. Non ho detto facci ironia, non sono ancora Fantozzi. Comunque, com'è possibile che dopo una costruzione straannunciata, strasbandierata, stracostata, stiamo parlando di 300, dov'è la cifra complessiva? 380 milioni. Adesso la riprendo, 63 milioni di euro già costata sta nuvola, si sono accorti che è leggermente abusiva, cioè invade la strada nevralgica per la viabilità e ai pedoni resterebbe una striscia di meno di 1,5 metri, perché esce di 2 metri rispetto al previsto, 2 metri. Allora, io va benissimo che Fuxas dica io non c'entro, ma qualcuno deve dirci chi ha sbagliato, perché attenzione su questo, la 2 metri di sforamento vuol dire che la strada, il marciapiedi che è largo 3 metri diventa di 1,5 metri, praticamente le persone devono camminare in fila indiana. Allora dovresti o trovare tra l'altro il direttore dei lavori è cambiato in corso, vedrete che nessuno avrà la responsabilità. O trovi il denaro per demolire e ricostruire, ma mi sembra una follia, oppure non è che puoi semplicemente allargare il marciapiede, anch'io ho pensato questo, perché c'è un dislivello di circa 1 metro dovuto all'emergere della struttura dei sotterranei, quindi non puoi neanche demolire, perché intervenendo in una parte strutturale verrebbe messa in discussione la stabilità dell'edificio. Allora si sta pensando all'idea di una passeggiata sopraelevata in cui uno possa camminare più in alto rispetto al viale, ma sono solo ipotesi. Faccio notare che dopo che il cantiere ha iniziato lo smaltimento di tutto quella che era la parte che recintava il cantiere, sono ancora dopo 4 mesi lì i jersey al loro posto. L'impasse impedisce a Eur S.p.A. di ottenere l'agibilità per l'opera e dunque di procedere alla vendita dell'hotel, fondamentale per impinguare le casse dell'ente, e per finanziare la nuvola si è già dovuto ricorrere alla vendita di alcuni suoi asset come l'archivio di Stato e il museo Pigorini. L'unica certezza è che adesso bisognerà metterci una pezza, dopodiché forse nel 2018 la nuvola gli eventi non li potrà ospitare. Guardavo la sedia. Cosa c'è? No, si capisce che è una sedia. Beh, sì, fortunatamente è una sedia. Non è di design. In che senso, scusi? Non capisco. Non so se si capisce che questa è una sedia. No, no. Così? No. Così? No. Così? No. Questo è design. Cioè? Vabbè. Grande Crozza Fuxas. Marco Marila, amministratore delegato di Motor K, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, resti con noi, dopo il GR24 e la pubblicità ci racconta cosa fa Motor K, chi vi ha dato i soldi, quante persone ha assunto e quali sono le vostre prospettive. 349-238-6666 per sms e whatsapp, anche dalla nuvola di Fuxas. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il duello Macron-Le Pen si è trasformato nell'evento centrale della politica europea. La sfida francese divide gli osservatori e cattura le speranze dei politici di mezza Europa. In diretta da Parigi con inviati ed esperti, Radio 24 seguirà i momenti decisivi del ballottaggio. Speciale Eliseo, con Gigi Donelli, domenica 7 maggio dalle 19 su Radio 24. Focus Economia. Minuti. Allora, Marco Marila, amministratore delegato di Motor K, dato quanti anni ha? Ne ho appena fatti 38. Allora, auguri innanzitutto. Che cosa fa Motor K, quando l'avete fondata, chi vi ha aiutato, quanti siete? Allora, Motor K nasce nel 2010 in Italia, anche se oggi siamo riusciti ad allargarci in Francia, Spagna, Germania e in Regno Unito, e praticamente aiuta le case auto e i concessionari a incontrare i consumatori che vogliono comprare un'auto nuova. Quindi aiutiamo il matching, l'incontro tra chi deve scegliere una nuova vettura e chi è in grado di proporgliela. I primi anni della nostra vita li abbiamo fatti con le nostre forze, che per una startup è sicuramente uno sforzo doppio. Recentemente abbiamo avuto la fortuna di poter portare a bordo due investitori importanti internazionali, da cui abbiamo raccolto 10 milioni di dollari, che è il più grande primo round di investimento per una startup di questo tipo. Erano italiani o stranieri gli investitori? Sono entrambi stranieri, uno è anglo-israeliano e uno è svedese. Ma sono due fondi? Sono due fondi, grossi fondi di investimento. Avete cercato anche tra gli italiani? Abbiamo cercato un po' tutto, perché comunque quando fai fundraising esplori molte direzioni, però devo dire che sceglierli stranieri è stata proprio una scelta, perché volevamo qualcuno che oltre ai soldi ci aiutasse ad espanderci all'estero e a far crescere la società a livello internazionale. Ma banche italiane, business angels, fondi che aiutano, cioè, le crowdfunding, niente in Italia? Beh, allora, per le dimensioni di 10 milioni di dollari, nel senso, si escludono subito gli angel, sì, certo, si escludono anche gran parte del... in Italia questo tipo di round è sicuramente difficile farli, e diciamo, la rischiosità associata non è da banca tradizionale. Quindi... Ma avete messo anche soldi vostri? Beh, avendo fatto i primi 6 anni senza finanziamenti esterni, abbiamo messo tutti i soldi nostri che avevamo all'epoca. Lei cosa faceva prima? Tutti e tre i fondatori arriviamo dal digital, quindi nel tempo abbiamo imparato l'automotive, e quindi abbiamo un po' messo tutti i soldi che avevamo all'epoca e un po', ammetto, lavorato senza stipendio per un paio d'anni per finanziare la crescita. E come vi mantenevate? Abbiamo avuto delle mogli molto sagge, molto... Oddio, sagge per voi, forse se chiedessimo alle mogli l'opinione sarebbe diversa, no? Sto scherzo. Decisamente. Mamma mia, un po' di olio su questa sedia, per favore, io capisco tutto, ma sono anche segnali. No, ce l'ho con le sedie della regia, e sembrano quelle del gruppo TNT. Allora, andiamo avanti. Quante sedie avete e quanti dipendenti avete? Ad oggi abbiamo uffici a Milano, ad Agrigento, perché abbiamo acquisito una piccola società ad Agrigento, e all'estero a Londra, a Madrid, a Parigi e a Monaco di Baviera. Fatturato e ordini? L'anno scorso abbiamo chiuso con 10,6 milioni e più o meno raddoppiamo tutti gli anni. Abbiamo una crescita media del 100% per 6 anni di fila, e quindi auspichiamo di mantenere ancora questo ritmo per un po'. E le persone, non ho capito, mi scusi. Sono 193 ad oggi, ne assumiamo 2,2 a settimana ad oggi. Ma come le assumete? Le assumiamo. Cioè a tempo indeterminato? Sì, più del 90%. E l'età media? Quasi 29 anni. La cosa bella è che abbiamo 20 nazionalità diverse e quindi abbiamo la diversity di cui si parla molto oggi per noi è una cosa naturale. E se dovessi girare insomma l'offerta di lavoro, chiamiamola così, il profilo che cercate qual è? Beh, abbiamo moltissime posizioni aperte perché nei prossimi 12 mesi abbiamo qualcosa tipo 150 persone che dovremmo aggiungere al nostro team di talenti. Molti sono sviluppatori di software a Milano, quindi molte persone faranno ricerca e sviluppo, però anche marketing, sales, supporto, quindi abbiamo un bel po' di... anzi, siamo in ricerca molto attiva. Allora, in bocca al lupo a lei, quindi Marco... Marilia, a Marco De Michele, Fabio Grugone, spero di aver pronunciato i nomi in maniera corretta, e a tutti i 190 dipendenti, di cui 140 a Milano. Il gruppo, prima che non chiediate, anche se come spiego delle volte non posso trasformare questo programma in un trova e cerca lavoro, si chiama Motor K. In bocca al lupo, e adesso andiamo sulla borsa. Alcuni ascoltatori mi dicono non ho capito nello specifico Motor K è una piattaforma online, Drive K, per le vendite di auto nuove, cioè è un portale, come spiegava appunto uno dei tre fondatori Marlia, è un portale in cui sostanzialmente uno ha informazioni su modelli, listini di 48 marchi, ha detto, e ha anche il preventivo online. L'idea di per se stesso, dice, idea banale, mi scrive qualcuno, intanto falla e poi mi dice se è banale. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Non c'è ancora Fontana, vado avanti io. Per quello che riguarda la borsa, oggi, al di là della vicenda Telecom, cosa vuol dire sostanzialmente? Vuol dire che il CDA di Telecom Italia, al di là delle voci circolate nelle settimane scorse, ha confermato a maggioranza Giuseppe Recchi, presidente esecutivo. Arnaud Roy de Puyfontaine, vicepresidente, quindi l'uomo di Bolloré, che è l'azionista di riferimento in Telecom, e Flavio Cattaneo, confermato amministratore delegato. Al presidente esecutivo LAD, in una nota si legge, sono stati confermati responsabilità e poteri già in essere, e al vicepresidente solo le funzioni vicarie, come da statuto, senza conferimento di deleghe. Quindi per De Puyfontaine era circolata la voce che invece De Puyfontaine avrebbe potuto avere addirittura o prendere il posto di Recchi e comunque avere deleghe operative. Il titolo più 2,40% Telecom Italia, mentre Eni più 2,50%, UbiBanca più 2,80% e la migliore Intesa San Paolo più 3%. I conti di Intesa, le migliori delle attese, questo tra l'altro ha fatto salire non solo Intesa San Paolo ma anche tutti i bancari. Intesa ha fatto un trimestre dove l'utile è salito a 901 milioni di euro. Se si escludono i contributi al sistema bancario, l'utile sarebbe stato di 1 miliardo 183 milioni. Faccio notare che l'utile nei primi tre mesi del 2016 era stato di 806 milioni, quindi più basso sia dell'utile, chiamiamolo così, rettificato per i contributi e gli altri oneri, e anche dell'utile senza questi oneri. Vado avanti, vi dovete accontentare di me con Mediaset, che si è avvantaggiata oggi anche dei buoni dati di Pearson in Gran Bretagna. Però tra i non bancari vorrei citare anche Eni, più 2,5% sulla scia di piccolo rimbalzo del petrolio a cui facevamo riferimento, che ha portato beneficio anche a titoli che erano stati più penalizzati ieri. Mi riferisco a Tenaris, più 1,51%, e Saipem più 1,50. Moncler prevalgono e anche in maniera significativa i realizzi, meno 3%. Faccio notare che però il titolo resta sui massimi storici. Ancora per quello che riguarda i titoli appunto non bancari, Italgas più 2%, e qui ci sono i conti e quindi l'apprezzamento del mercato. Exor più 2%, Campari più 1,80, come Buzzi, Unicem, Banca Mediolanum più 1,70, come Ferrari e Generali l'1,5% lo guadagna Unicredit ed ST, Microelectronics, ma anche appunto Tenaris e Saipem. Migliori, peggiori in assoluto, Zucchi più 9,20, Enervit più 7,90, Safebag più 6%, più 6%, il fronte opposto, Bialetti Industrie meno 7, Stefanel meno 6,40, Geffray meno 6,30, e poi Banca Ifis meno 4%. Dopo il traffico, l'ultimo tema, e cercheremo di tenere assieme quello che capiterà in Francia domenica con un libro. Ogni tanto, quando riusciamo, portiamo anche dei libri. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hope in the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, c'è un giornalista, conduttore televisivo, con cui sono d'accordo su pochissimo, soprattutto quando parliamo di economia, del ruolo dell'Europa, dell'euro, di questa Bruxelles, del fatto che si debbano uscire dall'euro, e proprio perché sono d'accordo su quasi nulla lo invito molto volentieri. Si chiama Gianluigi Paragone, molti di voi lo conoscono, conduce la gabbia Open. Prima che me lo scriviate, sì, anch'io sono sto ospite alla gabbia, ma non è ancora un reato in questo paese. Gianluigi, buonasera. Buonasera, ciao Sebastiano. Allora, perché parliamo con te di economia? Perché, come spesso facciamo quando abbiamo l'opportunità e l'occasione, presentiamo un libro, si chiama Gang Bank. Attenzione, è ancora Focus Economia, non è ancora la zanzara, quindi Gang Bank con la K finale, e sottotitolo Il perverso intreccio tra politica e finanza che ci frega il portafoglio e la vita. Dico subito che non è un libro sulla finanze, sulle banche, per quanto ce ne sarebbe ancora molto da scrivere, ma è un libro in cui, se ho ben capito Gianluigi, la tesi, e questa volta sono d'accordo con te, non so se ti faccia piacere, è che sostanzialmente ci vorrebbe, per evitare quanto accaduto nel 2008 e quanto, aggiungo io, troppo frettolosamente dimenticato, mi riferisco a Trump che come primo provvedimento riduce la legge già molto tiepida sui conflitti di interesse tra banca che raccoglie fondi dei risparmiatori, banca che fa investimenti. Dicevo, la tesi, se ho ben capito, è che ci vorrebbe più politica e che quello che è capitato in questi anni come fregature anche per i risparmiatori è stato dovuto, sullo sfondo, dalla sudditanza della politica nei confronti della finanza. È così? Assolutamente sì, come noi ci troviamo d'accordo, nel senso che, attenzione, dire e scrivere un libro che è un elogio della politica non significa fare l'elogio dei politici o peggio della classe dirigente attuale. L'elogio della politica è l'elogio di una guida che deve mettere in equilibrio le varie componenti che animano la società, tra cui c'è anche l'economia, tra cui c'è anche la finanza, ma deve esserne un po' la guida. Non è un male, assolutamente, è un bene, anzi, perché vuol dire che la finanza, se avesse una politica seria e con un progetto, farebbe meglio le cose che adesso non sta facendo, perché è in transagonistica, diciamo così, in un eccesso di ruoli. Più politica, devo dire che la chiedono anche altri osservatori, cioè un'analisi che poi abbiamo cercato di fare, poi siamo stati travolti dal 2010-2011, la crisi del debito sovrano in Europa, cioè, insomma, il fatto che la politica si sia già ai tempi di Clinton ha questa grossa colpa di aver elevato il Glass-Steagall Act, quello che dal 29 delimitava, separava la banca che lavora con risparmiatori dalla banca che fa investimenti, la dico male ma per capirci, era dovuto anche al fatto che tutte le informazioni arrivavano non più dalla politica ma anche e soprattutto dalla finanza. Venendo all'Europa, tu vedi lo stesso ragionamento, lo stesso principio anche nella gestione dell'euro, così forse trovo un altro punto di convergenza, e cioè un euro gestito e un'Europa gestita più nella logica della finanza, io la chiamo ragionieristica, che nell'interesse della politica, che ricordo, può piacere o no, ma è ancora un interesse superiore a quello dei singoli portatori di interesse, diciamo. Ma certo, noi continuiamo a parlare dell'Europa non capendo che l'Europa è un qualcosa di politico, l'Unione Europea non c'entra con l'Europa, sono due concetti che sono diversi e che noi invece stiamo scambiando per sinonimi. L'Europa ha una identità o ha più identità e può avere una matrice politica, l'Unione Europea invece è un qualcosa che si sovrappone sempre di più all'euro, soprattutto adesso con l'uscita della Gran Bretagna addirittura dall'Unione Europea. Quando tu senti dire che ringraziamo Draghi perché ha salvato l'Europa... Io lo ringrazio dicendo, ogni settimana, quindi proprio... Certo, ma stai dicendo una cosa sbagliata, perché l'Europa politica non può essere salvata da un banchiere. Ah, non c'è dubbio. Il banchiere giustamente salva le condizioni di un mercato e di una finanza globale, ma ovviamente non può che guardare questa situazione con l'occhio del primario, ma non può essere lui il salvatore dell'Europa. Ecco perché... L'Europa politica non c'è. Volete fare l'Europa politica? E lo dico sempre come provocazione. Bene, cominciamo a fare l'Europa fiscale dove c'è una linea comune, perché altrimenti non si capisce il motivo per cui noi siamo ancora in ballo con una moneta a cui va anche una politica monetaria. C'è solo la politica monetaria del banchiere centrale. È sbagliato. Non esiste nessun manuale di economia che ti darebbe ragione. Infatti io ho appena finito di leggere il libro di Stiglitz. Dice esattamente questo, ma è inconcepibile avere una moneta che non abbia una guida politica. Sì, allora l'uguaglianza, o meglio, l'armonizzazione fiscale è un pugno nell'occhio, nel senso che noi vediamo e raccontiamo sempre di grandi gruppi, soprattutto quelli dell'information technology, che se ne approfittano e vanno a pagare le tasse là dove più gli conviene, con la concorrenza interna. Ma attento, non solo fanno questo, ma i loro uffici legali, i grandi uffici legali, scrivono le leggi, perché io sono convinto che l'Irlanda avrà preso una legge che era a favore di questi grandi gruppi, ma se io sono un paese che per buona parte è agricolo, se devo attrarre, devo crescere, mi faccio dare tranquillamente lo stesso schema che ha applicato l'Olanda e il Lussemburgo per attrarre capitali. Quindi secondo me quella causa la vincerà Apple contro l'Unione Europea. Perché loro non è che hanno fatto una violazione di legge, hanno applicato una legge, ma è una legge sbagliata. Su questo non abbiamo dubbi, così come non abbiamo dubbi, lo dico anche se rischio di sembrare troppo d'accordo con te, sul fatto che in questo momento io ringrazio Draghi perché, nonostante l'insipienza dell'Europa politica, almeno abbiamo un banchiere centrale che ha paradossalmente più sensibilità politica lui di tutti i politici che abbiamo messo a Bruxelles, dei commissari europei. Faccio una citazione dotta. Non è un male questo che stai dicendo, perché la formazione economica, o meglio macroeconomica, di Draghi è quella di Federico Caffè, che era il più grande keynesiano. Ha studiato anche dai gesuiti, Draghi, non dimentichiamo. Esatto, ma formazione keynesiana. Quindi lui la capisce questa cosa qui, perché ce l'ha la sensibilità politica, ma è in un ruolo sbagliato. Ecco perché io ti dico, hai ragione quando benedici dal tuo punto di vista Draghi, ma non è un soggetto politico. No, il problema è che Draghi non può fare nulla di politico, e soprattutto non si può chiedere a Draghi di sostituirsi alla politica. Non lo deve fare. Vengo all'ultima domanda, Gianluigi. Visto che domenica si vota ballottaggio in Francia, avremo la diretta che inizia alle 19 su Radio 24 fino alle 21. Il voto dovrebbe arrivare, stando a quello che ricordiamo del ballottaggio francesi, in tempi brevissimi. Sì, certo. Oggi di nuovo contestazioni per Marine Le Pen, è dovuta fuggire dalla catedrale di Rem. Io non amo mai le contestazioni, fatela parlare e non impedite che parli, però immagino che, alla luce del tuo ragionamento, Macron, proprio perché l'accusa che si fa a Macron è di essere troppo succube da un lato della Germania e dall'altro del mondo bancario da cui proviene, Macron non ti piace? No, non mi piace per niente, perché è esattamente nella stessa linea neoliberista di Clinton e di Blair e di questi signori, quindi sarà esattamente l'uomo funzionale ad una Francia che ha provocato mille danni dalla Libia in poi. Non per questo tiferei o voterei la Le Pen, perché poi qual è il problema? Che neanche questi sovranisti poi hanno una piattaforma politica compiuta. È il dramma che devi buttare dalla torre il meno peggio. Cioè le butti dalla torre il peggiore, devi scegliere bene o peggio, capisci che così. Sì, però Gianluigi, scusami, io però vedo anche un'estrema debolezza, qui parlo della Francia, nei progetti della Le Pen. Io non ho capito come si sarebbe detto una volta, lo staff che abbia dietro, cioè andare a proporre il referendum e negoziare tutto vuol dire che devi avere dietro delle competenze, dei tecnici, uno staff vero e proprio che personalmente non ho visto. Ti ho detto infatti che questo è il problema dei sovranisti, che non c'è una piattaforma politica che consenta di far partire un disegno politico alternativo. Macron è perfetto per chi vuole cambiare i governi, ma non la stessa politica che si sta diffondendo a livello globale, capisci? Quindi Macron è funzionale a quel disegno, la Le Pen non è certamente funzionale a quel disegno, ma indirettamente lo è, perché non avendo un disegno compiuto, uno staff compiuto, una squadra compiuta, rimane un soggetto debolissimo. È un primo passo per scardinare un qualcosa. Allora, vedo che alcuni si lamentano, meno male che non eravate d'accordo, è una disfida tra keynesiani. Abbiamo cercato qualche punto di unione, ripeto, sulla grande parte degli argomenti, ma non è così interessante. Io e Paragone non siamo quasi mai d'accordo. Detto questo, chi vincerà? Così chiudiamo. Se dovessimo parlare di liberalizzazione ci scannerebbero, io sono contro la liberalizzazione. Io sono favorevole. Liberalizzazione, tu sei favorevole. Allora, chi vincerà, Gianluigi? Secondo te? Vince Macron, deve vincere. Guarda che Macron, il comune amico Giulio Sapelli ha detto l'esatto opposto la settimana scorsa da questi microfoni, che secondo lui vince la Le Pen. No, te lo dico, e così abbiamo avuto. Io adoro Sapelli, non vince la Le Pen, ma politicamente è una vittoria lo stesso, perché si sta spargendo in Europa un seme alternativo. È il primissimo passo. Dopo io obbligherei alle Pen, Salvini, il Movimento 5 Stelle a studiare una piattaforma, ognuno per i fatti proprio, però a studiare una piattaforma politica. A studiare, diciamo. E certo, a studiare una piattaforma politica che abbia la densità per stare in piedi. Io direi solo a studiare, però così chiudiamo in totale disaccordo. Grazie, in bocca al lupo per il libro Gianluigi Paragone, Gang Bank, casa editrice PM, ed è veramente tutto. Devo chiudere però con una notizia che ci rattrista moltissimo, perché è scomparso per un incidente improvviso ragazzo, Benjamin De Zulian, 27 anni, che era stato stagista e quindi collaboratore di questo programma. Va da parte mia il cordoglio a tutta la famiglia, e il resto come sempre l'augurio di un buon fine settimana a tutti voi, a partire da chi dovrà passarlo lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.